il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Abbiamo spesso parlato nella nostra trasmissione del comparto dell'olio di oliva e delle proprietà dell'extravergine. Forse le sue virtù e l'importanza dell'olivicoltura ci hanno però fatto un po' mettere in secondo piano l'esistenza di molti altri oli vegetali, anch'essi in gran parte prodotti in Italia, che a loro volta hanno delle proprietà molto interessanti anche per l'alimentazione e non solo. Cito ad esempio l'olio di lino, l'olio di semi di girasole. Vorremmo provare oggi a riscoprire qualcuno di questi oli e lo facciamo con Giuseppe Matticari, imprenditore e titolare del marchio Crudolio di Montecchio Maggiore, che forse qualcuno, più di qualcuno tra gli ascoltatori avrà avuto occasione di incontrare sugli scaffali di qualche negozio del Veneto. Benvenuto Giuseppe Matticari. Buongiorno a voi. Ecco, la ringraziamo di essere con noi e di illustrarci un attimino anche questa gamma di oli che sono poi quelli che voi anche andate a produrre. Intanto, di cosa stiamo parlando? Quali sono i principali oli non di oliva da riscoprire per l'alimentazione in particolare, ma non solo? Diciamo che gli oli di semi sono variegati. Possono esserci oli sia di semi che di frutti. Gli oli di frutti, oltre che dell'oliva, frutti possono essere la mandorla, la noce, la nocciola, fin tanto all'argan, che è un olio che va molto di moda. Mentre i semi, i principali sono l'olio di girasole, l'olio di germe di mais, l'olio di sesamo e l'olio di lino e di canapa, che ultimamente vanno molto di moda per il loro alto contenuto di omega 3. La peculiarità della nostra azienda è che questi oli non sono estratti con dei solventi chimici come generalmente avviene per gli oli di semi, ma sono estratti con un procedimento meccanico e fisico e basta. Quindi il marchio Crudolio, appunto olio crudo. Olio crudo, esatto, e quindi questi oli mantengono le proprietà nutrizionali che hanno, ma anche il loro sapore tipico, caratteristico del seme, non essendo stati raffinati, che come sappiamo il processo di raffinazione prevede decolorazione, deacidificazione e deodorazione, quindi l'eliminazione di tutte le componenti tipiche di un olio. Quindi in questo caso parliamo di oli puri in qualche modo, che si utilizzano poi come? Sia in alimentazione, sia anche per il corpo, insomma, per questioni estetiche. Diciamo, alcuni oli hanno una duplice attitudine, perché comunque c'è tutto un mondo per gli oli da massaggio, fino a oli che vengono usati per nutrire i capelli. Ma prendiamone uno, per esempio l'olio di lino che citavamo prima. Beh, l'olio lino tipicamente è un olio che si prende un po' come integratore alimentare, perché è un olio ricco di omega 3. Diciamo che è la più grande fonte di omega 3 nel mondo dei vegetali, perché noi possiamo assumere gli omega 3 o dai vegetali, quindi dai semi oleaginosi, oppure dal pesce. L'omega 3 del pesce si differenzia perché ha 23 doppi legami, in quanto il pesce ha già metabolizzato questo grasso, essendo un essere vivente. Nell'olio di lino, assumendolo, dobbiamo un po' metabolizzarcelo noi, quindi ci vuole un po' più tempo affinché l'organismo entri in simbiosi con l'omega 3, che come sappiamo è chiamato acido grasso essenziale, proprio perché è della famiglia di questi grassi che aiutano a metabolizzare tutti i grassi del nostro organismo. Quindi generalmente viene preso come integratore alimentare 2 cucchiaini la mattina. Noi consigliamo di farlo insieme allo yogurt perché si lega molto bene alle proteine del latte. Alcuni lo usano anche per ravvivare e fortificare i capelli, perché è un olio molto nutriente che fa molto bene. Ecco, mentre per cucinare noi sappiamo che esistono appunto oli di semi di girasole, di mais, eccetera. Quali sono le caratteristiche e cosa li differenzia rispetto all'olio extravergine di oliva? Beh, diciamo che è un po' la tradizione alimentare di ogni famiglia. Ognuno è abituato a dei sapori. Se si vogliono usare dei sapori non forti, sicuramente l'olio di girasole molto indicato. Io consiglio a tutti l'olio di sesamo. L'olio di sesamo è un olio molto equilibrato, è un olio molto gradevole al gusto, è indicato per fare le insalate ed è anche equilibrato come composizione gascomotografica, è equilibrato in acidi grassi poliinsaturi e monoinsaturi. E poi, ripeto, una buona fragranza, è molto buono, è appetitoso. Bene, ci fermiamo per qualche secondo, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Con sé un racconto che parla di te. Da quel giorno che il cielo era viola, che eri seduta lì, non sei più tornata. Sei stata di parola, non ti sei fermata, con il vento sei andata via da te, via da qui, via da tutto quello che intanto molto lontano da qui. Sorridi così, hai lasciato e ti chiedi chi hai amato. Non sei più tornata, sei stata di parola, non ti sei voltata, con il vento sei. Torniamo in linea con la trasmissione del quadrifoglio. Oggi stiamo parlando degli oli per uso alimentare e non solo, alternativi all'olio extravergine di oliva che ormai tutti quanti conosciamo e di cui abbiamo spesso parlato. Stiamo parlando con Giuseppe Matticari, imprenditore e titolare del marchio Crudolio, e abbiamo visto anche alcuni oli, l'olio di lino, l'olio di sesamo. Si fa un gran parlare in questo periodo di olio di palma in maniera anche negativa per una serie di motivi, sia a livello salutistico che altro. È un prodotto che voi avete, e ci può dire qualcosa di più su quest'olio? Noi non lavoriamo olio di palma perché è un olio tipico delle regioni equatoriali. Nel mondo del biologico viene usato principalmente per produzioni industriali, quindi laddove si fanno biscotti, crackers, che occorrono dei grassi vegetali in cottura, viene usato anche l'olio di palma. Io mi sento di spezzare una lancia a favore dell'olio di palma, perché tutti ne parlano male perché è ricco di grassi saturi. E questo senz'altro è vero, perché in un'alimentazione equilibrata sappiamo che noi dobbiamo avere una stessa percentuale tra grassi saturi, polinsaturi e monoinsaturi. Però in alcuni paesi equatoriali, dove i grassi saturi vengono solo dall'olio di palma nell'alimentazione, perché nessuno si ciba di formaggi, di salumi, per cui non hanno altri apporti di grassi saturi, l'olio di palma probabilmente anche lì è un grasso equilibrato. Dire che poi si eliminano delle foreste equatoriali per far posto a delle piantagioni d'olio di palma è vero, però chi come me è stato a visitare queste piantagioni sa benissimo che successivamente, nel giro di un anno, si è riformata una foresta equatoriale, perché la stessa piantagione di palma è così rigogliosa in quelle zone che è come avere una foresta, ma è con in più un vantaggio che nel momento che c'è una piantagione magari c'è una famiglia di agricoltori e di contadini che vive coltivando magari un ettaro di olio di palma. Certo, sappiamo che è una questione complessa e anche da approfondire, perché ogni questione ha dei risvolti secondo il punto di vista da cui si guarda. Voi che lavorate tutti questi semi, volevo chiederle, ma l'agricoltura italiana riesce a produrre sufficienti materie prime per la produzione di questi oli, oppure ci troviamo a doverne importare parecchio proprio anche per il nostro fabbisogno? Beh, diciamo che molti oli di semi, molti semi da agricoltura biologica vengono prodotti in Italia. Alcuni non sono prodotti in Italia perché non si producono, parlavo prima del sesamo, ed è una produzione che in Italia si faceva tanti anni fa in Sicilia, ma in Italia continentale, diciamo, probabilmente non c'è il clima adatto, perché ha bisogno probabilmente di più caldo, più sole. Si produce in Africa, si produce in Centro America, si produce in India. Certo. Altri oli, un po' storicamente, l'altro è l'olio di cartamo, che è un olio abbastanza sconosciuto, immagino, per i radioascoltatori. Però è un olio che, per esempio, in Svizzera si usa moltissimo. È un olio che viene prodotto in Australia, viene prodotto in Argentina. Adesso stanno facendo delle prove in Romania, però anche quello non è un seme tipico delle nostre zone. Per quanto riguarda l'olio di mais, di girasole, nelle due versioni, girasole linoleico ed alto oleico, alto contenuto di acido linoleico o acido oleico, questi sono oli che si producono in Italia. Lo stesso olio di lino, i semi di lino, quindi l'olio si comincia a produrre in Italia. Benissimo. Benissimo. Volevo chiederle in conclusione dove si trovano i vostri oli e se c'è un sito internet per avere maggiori informazioni. Beh, il sito internet è www.crudolio.it. In Veneto si cominciano a trovare in diversi supermercati, negli Iperlando, nei Tosano, nei supermercati Cadoro, da Martinelli a Verona e tra poco anche nei supermercati Rossetto. Benissimo, allora se vedete il marchio Crudolio sapete da dove arrivano. Grazie. Grazie a lei, buongiorno. E andiamo a concludere anche la trasmissione di questa settimana con un paio di notizie che ci arrivano dallo sportello Europe Direct Veneto. Le previsioni della FAO per le scorte mondiali di cereali alla chiusura della stagione produttiva dello scorso anno sono aumentate di circa 8 milioni di tonnellate e dovrebbero raggiungere il picco mai registrato in 15 anni di 631 milioni di tonnellate, con una parte della revisione risultante dalle stime riviste del livello delle scorte in Cina e in Ucraina. Arriva invece il semaforo verde del Ministero delle Politiche Agricole al cosiddetto Piano Agricoltura 2.0, ovvero l'invio della domanda precompilata online per gli aiuti alla PAC. Prende dunque il via il programma di digitalizzazione del rapporto tra amministrazione e imprese agricole, che dovrebbe rendere la vita più semplice per 1,5 milioni di agricoltori. Infine, in aprile verrà approvato il primo bando del nuovo programma di sviluppo rurale della Regione Veneto, con uno stanziamento di 144 milioni di euro. Lo fa sapere appunto la Regione, prima in Italia a far partire i bandi della nuova programmazione che riguarderanno le misure 10.1, ovvero l'agroambiente, 11 all'agricoltura biologica e 13 indennità compensativa a favore delle zone soggette a vincoli naturali. La scadenza della presentazione delle domande dovrebbe essere fissata per il 15 maggio. Informazioni sul sito della Regione oppure sul sito internet www.piave.veneto.it. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima. Ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.